Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir, traduzione di Franco Lucentini, introduzione di Renzo Paris. Il grande movimento filosofico, letterario, politico e artistico che va sotto il nome di esistenzialismo visse e prosperò, come è noto, dagli anni 30 agli anni 50 del secolo scorso. Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty per la Francia e Heidegger e Jaspers per la Germania furono gli dei di quell'Olimpo. Attorno a loro vissero scrittori della levatura di Albert Camus, di Georges Bataille. All'uscita dei Mandarini del 1954, quel movimento era agli sgoccioli. Sartre aveva alle spalle le sue opere maggiori, come del resto Albert Camus, che nel 57 si guadagnò il premio Nobel. I Mandarini chiudevano, insomma, una stagione culturale e politica, rievocando l'atmosfera in cui operarono intellettuali, scrittori, filosofi, giornalisti, tutti impegnati nella costruzione di un mondo nuovo. Nei due protagonisti maschili del romanzo, i lettori credettero di riconoscere Sartre e Camus, e nel personaggio femminile la stessa autrice. Come tutte le opere di Simon, compreso Il secondo sesso, che è del 1948, il quale fondò il femminismo teorico, anche i Mandarini si basava sui dati della sua biografia. Memorie di una ragazza per bene, 1958, continuò la serie autobiografica, che comprende anche La forza dell'età, La forza delle cose e A conti fatti. Fin da quando era iscritta ai corsi di filosofia della Sorbona, la de Beauvoir si legò a filo doppio con Jean-Paul Sartre e la sua frenetica attività di intellettuale filosofo, di agitatore politico, di direttore di riviste militanti, di propalatore dell'engagement in letteratura. Per Sartre, la sua compagna aveva il cervello di un uomo e la sensibilità di una donna, per questo l'amava. Mentre per il suo acerrimo nemico, Céline, quello era un modo di amare da omosessuali. D'altro canto, Simon considerava Sartre una divinità, piena di ammirazione, di reverenza per lui. La loro era una coppia aperta, in anticipo sui tempi, molto diversa però da quelle italiane, come quella di Moravia Morante, che non registrò le simbiosi artistiche della coppia francese. Per Simon la donna era divisa, dipendente e libera, autonoma e legata, tesa verso un assoluto che Sartre bollava al solito come piccolo borghese. A differenza del suo compagno, Simon cercava la prova, rifiutando il personaggio che i media le avevano cucito addosso di donna libertina o, al contrario, di maestrina. L'invitata, che è del 1943, è il romanzo di un ménage à trois e fu quello il responsabile della nomea della libertina, mentre i saggi femministi costruirono la figura dell'intellettuale pedagoga. La Sartreuse, come fu appellata, elaborò dunque nei Mandarini il lutto di un'epoca, che coincide con l'ultima esplosione della grande cultura francese. Thank you. Henri gettò un ultimo sguardo al cielo, un cristallo nero. Mille aerei a saccheggiare questo silenzio erano difficili a immaginarsi, ma le parole continuavano a urtarsi nella sua testa con un rumore allegro. Offensiva arrestata, disfatta tedesca. Presto me ne potrò andare. Voltò l'angolo del lungo fiume. Le strade avrebbero odorato d'olio e di fior d'arancio, tra il chiacchierare della gente seduta fuori ai tavolini, e lui avrebbe bevuto del vero caffè al suono delle chitarre. I suoi occhi, le sue mani, la sua pelle avevano fame. Che lungo digiuno! Salì lentamente la scala gelida. Finalmente! Paul lo stringeva come se l'avesse ritrovato dopo lunghi pericoli, mentre egli guardava al di sopra della sua spalla l'albero inghirlandato che i grandi specchi riflettevano all'infinito. La tavola era carica di piatti, di bicchieri, di bottiglie. Mazzi di vischio e di agrifoglio erano ammucchiati ai piedi d'uno sgabello. Si liberò e gettò il cappotto sul divano. «Hai sentito la radio? Buone notizie!» «Ah, dimmi, presto!» Lei non ascoltava mai la radio. Non voleva avere le notizie che dalla sua bocca. «Non hai notato come fa chiaro questa sera? Parlano di mille aerei sulle colonne di von Rundstedt. Dio, allora non torneranno!» Nessuno ha mai pensato che sarebbero tornati. Ma anche lui, per la verità, un momento l'aveva pensato. Paul sorrise misteriosamente. «Io comunque avevo preso le mie precauzioni.» «Che precauzioni?» «In fondo alla cantina c'è uno sgabuzzino. Ho chiesto alla portiera di tenerlo sgombro.» «Ti saresti nascosto là?» «Non avresti dovuto parlare di questo alla portiera. È così che si crea il panico.» Paul stringeva nella sinistra i pizzi dello scialle con l'aria di proteggersi il cuore. «T'avrebbero fucilato», disse. «Tutte le notti li sento. Bussano. Io apro. Li vedo.» Immobile, gli occhi semichiusi, pareva davvero che udisse delle voci. «Non accadrà», disse Henri allegramente. Ella aprì gli occhi e lasciò ricadere le mani. «La guerra è davvero finita?» «Non ce n'è più per molto.» Henri mise lo sgabello sotto la grossa trave che sbarrava il soffitto. «Vuoi che t'aiuti?» «Vengono i Dubreuil per aiutarmi.» «E perché aspettarli?» Fece per prendere il martello, ma Paul gli posò una mano sul braccio. «Non lavori?» «Non questa sera.» «Dici così tutte le sere. E ormai è da quasi un anno che non scrivi più.» «Non preoccuparti. Voglia di scrivere ne ho sempre.» «Quel giornale ti prende troppo tempo. Guarda che ora rientri. E potrei giurare che non hai mangiato niente. Non hai fame?» «No, per il momento.» «Non sei stanco?» «Ma no.» Sotto quegli occhi che lo divoravano di premura, Henri si sentiva come un tesoro, fragile e pericoloso. Era questo che lo stancava. Salì sullo sgabello e si mise a battere un chiodo a piccoli colpi prudenti. La casa non era proprio nuova. «Posso persino dirti quello che scriverò. Sarà un romanzo allegro.» «Cosa vuoi dire?» disse Paul con voce inquieta. «Giusto quello che dico. Ho voglia di scrivere un romanzo allegro.» Per poco non l'avrebbe inventato lì quel romanzo, sul momento. L'avrebbe divertito rifletterci a voce alta. Ma Paul lo fissava con uno sguardo così intenso che tacque. «Passami il grosso mazzo di vischio.» Appese con precauzione la palla verde costellata di piccoli occhi bianchi e Paul gli tese un altro chiodo. Sì, la guerra era finita, almeno per lui. E questa sera era una vera festa. La pace cominciava. Tutto ricominciava. Le feste, le vacanze, i viaggi, forse la felicità, la libertà, certo. Finì da appendere lungo la trave i mazzi di vischio e di agrifoglio, le ghirlande di paglia d'argento. «Va bene?» chiese scendendo dallo sgabello. «Perfetto!» Thank you. Paul s'accostò all'albero, raddrizzò una delle piccole candele. «Allora andrai in Portogallo? Dico, se non c'è più pericolo». «Naturalmente». «E durante questo viaggio non lavorerai?» «Suppongo di no». L'aria incerta, ella prese a giocherellare con una delle biglie dorate che pendevano ai rami, finché non l'udì pronunciare le parole che attendeva. «Mi dispiace davvero di non portarti con me. So bene che non è per colpa tua». Non preoccuparti. Io di viaggi ne ho sempre meno voglia. A che servono? Ella sorrise. Ti aspetterò. Aspettare, quando c'è la sicurezza, non è noioso. Henri ebbe voglia di ridere. A che servono? Che domanda. Lisbona, Porto, Sintra, Coimbra. Che bei nomi. E non aveva neppure bisogno di pronunciarli per sentirsi saltare la gioia alla gola. Gli bastava dirsi: non sarò più qui, sarò altrove. Altrove. Una parola ancora più bella dei più bei nomi. Non vai a vestirti? Chiese. Vado. S'accostò alla tavola mentre Paul s'avviava per la scala interna. A rifletterci bene, aveva fame, ma non poteva confessare un appetito senza che l'inquietudine alterasse i tratti di Paul. Spalmò di patè una fetta di pane e vi mise i denti. «Quando torno dal Portogallo», si disse con decisione, «andrò a vivere all'albergo. È così piacevole rientrare la sera in una stanza dove nessuno vi aspetta. Persino nei primi tempi, quando era innamorato di Paul, ci aveva sempre tenuto ad avere 4 mura sue. Ma poi, tra il 39 e il 40, Paul cadeva morta ogni notte sul suo cadavere orribilmente mutilato. E quando le fu reso, come avrebbe osato rifiutarle qualcosa?» D'altra parte, per via del coprifuoco la cosa aveva avuto la sua comodità. «Potrai sempre andartene», aveva detto Paul. Ma ancora non aveva potuto. Prese una bottiglia e piantò il cavatappi nel sughero scricchiolante. In un mese Paul si sarebbe abituata a fare a meno di lui. E se non si fosse abituata, tanto peggio. La Francia non era più una prigione. Le frontiere s'aprivano. La vita non doveva essere più una prigione. 4 anni d'austerità. 4 anni a non occuparsi che degli altri. Era molto. Era troppo. Era tempo per lui d'occuparsi un po' di se stesso e per questo aveva bisogno d'essere solo ed essere libero. Non era facile ritrovarsi dopo 4 anni. C'era un mucchio di cose da mettere in chiaro. Quali cose? Ebbene, ancora non lo sapeva chiaramente, ma laggiù, passeggiando per le stradette che odorano d'olio, avrebbe cercato di fare il punto. Ebbe di nuovo un colpo al cuore. Il cielo sarà azzurro, il bucato sventolerà alle finestre, lui camminerà con le mani in tasca da turista, tra gente che parlerà un'altra lingua e le cui preoccupazioni non lo riguarderanno. Si lascerà vivere, si sentirà vivere. E basterà questo, forse, perché tutto divenga chiaro. «Che caro, hai stappato tutte le bottiglie!» Paul scendeva la scala a piccoli passi fruscianti. «Insomma, ti sei proprio data al viola?» le disse con un sorriso. «Ma tu adori il viola», disse Paul. Lui adorava il viola da 10 anni. 10 anni sono lunghi. «Non ti piace questo vestito?» «Oh no, è molto carino», disse lui con premura. «Pensavo solo che ci sono altri colori che ti starebbero bene. Per esempio, lanciò a caso, il verde». «Il verde? Tu mi vedi in verde?» S'era piantata davanti a uno degli specchi e si guardava disorientata. Ma era talmente inutile, in verde o in giallo. Mai più egli la ritroverebbe come l'aveva desiderata 10 anni prima, quando, con un gesto non curante, ella gli aveva teso i suoi lunghi guanti viola. Le sorrise. «Vieni». Balliamo. Sì, balliamo, rispose Paul con una voce così ardente che Henri tornò di ghiaccio. Quando le cinse la vita, Paul gli si strinse contro, mormorando: Ti ricordi la prima volta che abbiamo ballato insieme? Sì, alla Pagode. Mi dicesti che ballavo malissimo. Fu quel giorno che ti rivelai il Museo Grévin. Tu non conoscevi il Museo Grévin, non conoscevi niente. Parlava con voce intenerita. Aveva appoggiato la fronte contro la guancia di lui. Ci rivedo. Anche Henri si rivedeva. Erano saliti su un piedestallo, in mezzo alla sala dei miraggi, e l'immagine della loro coppia si era moltiplicata all'infinito tutto intorno, tra foreste di colonne. Dimmi che sono la più bella delle donne. Sei la più bella delle donne. E tu sarai il più glorioso degli uomini. Henri posò gli occhi su uno dei grandi specchi. L'immagine della loro coppia si ripeteva all'infinito lungo un filare di abeti inghirlandati, e Paul gli sorrideva con un'aria meravigliata. Possibile che non si rendesse conto che non era più la stessa coppia. «Bussano!» disse Henri e si precipitò verso la porta. Erano i Dubreuil, carichi di panieri e di sporte. Anne stringeva tra le braccia un gran mazzo di rose e Dubreuil si era gettato su una spalla degli enormi grappoli di peperoncini rossi. Nadine veniva dietro, l'aria scontrosa. «Buon Natale! Buon Natale! Sapete la notizia? L'aviazione ha potuto attaccare. Sì, 1000 aerei. Sono spazzati. È la fine. Dubreuil posò sul divano il suo carico di frutti rossi. Ecco qua, per decorare il vostro piccolo bordello. Grazie, disse Paul senza calore. L'infastidiva che Dubreuil chiamasse quello studio il suo bordello. Per via di tutti questi specchi e di questi tendaggi rossi, diceva lui. Stava ispezionando la stanza. Bisogna appenderli alla trave di mezzo, sarà meglio del vischio. A me piace il vischio, disse Paul con voce ferma. È stupido il vischio, è rotondo, è storico, e poi è un parassita. Appendete i peperoncini in cima alla scala, lungo la ringhiera, suggerì Anne. Qui starebbero molto meglio, insisté Dubreuil. Io ci tengo al mio vischio e al mio agrifoglio, disse Paul. Va bene, disse Dubreuil, e fece segno a Nadine. Vieni ad aiutarmi. Dubreuil finì di appendere i peperoncini e scese la scala. Niente male, disse esaminando con occhio critico il suo lavoro. Appoggiata alla ringhiera, Nadine masticava svogliata un peperoncino. A 18 anni, nonostante i suoi vagabondaggi per letti francesi e americani, ella sembrava ancora in piena età ingrata. «Ma non mangiare la decorazione!» le gridò Dubreuil. Poi si volse a Henri. «Ho incontrato Samazelle l'altro ieri e sono proprio contento. Pare disposto a mettersi con noi. Voi siete libero domani sera. Non posso lasciare il giornale prima delle 11. Allora passate alle 11. Dobbiamo discutere della faccenda e vorrei proprio che ci foste anche voi». «Non credo che un tipo come Samazelle faccia molto caso di me», disse Henri sorridendo. «Deve ben sapere che non sono un uomo politico». «Ma pensa come me che non bisogna abbandonare la politica ai politici. Venite, magari un momento solo. C'è un gruppo interessante dietro Samazelle, dei giovani. Ne abbiamo bisogno». «Oh, sentite, non ricomincerete mica a parlare di politica», disse Paul seccata. «È festa questa sera». «E allora?» disse Dubreuil. «I giorni di festa è vietato parlare di quel che ci interessa?» «Ma perché ci tenete tanto a trascinare Henri in questa storia? Si stanca già abbastanza al giornale e vi ho detto 100 volte che la politica l'annoia». «Lo so. Voi mi prendete per un vizioso che cerca di corrompere i compagni più piccoli», disse Dubreuil sorridendo. «Ma la politica non è un vizio, mia bella signora. Né un gioco di società. Se fra 3 anni scoppiasse una nuova guerra, sareste voi la prima a dolervene». «Ma questo allora è un ricatto», disse Paul. «Quando questa guerra avrà finito di finire, nessuno avrà voglia di cominciarne un'altra». «E voi credete che conti qualcosa la voglia che può averne la gente?» Paul stava per rispondere, ma Henri l'interruppe. «Davvero», disse, «non è per cattiva volontà, ma t'assicuro non ho proprio il tempo». «Il tempo non manca mai», disse Dubreuil. «A voi no», disse Henri ridendo, «ma io sono un essere normale. Non posso lavorare 20 ore di fila né restare un mese senza dormire». «Ma nemmeno io», disse Dubreuil. «Non ho più 20 anni. E del resto non vi si domanda tanto». Henri lo guardò con un sorriso. 20 anni o 80, Dubreuil aveva sempre la stessa aria giovane, con quegli occhi enormi e ridenti che divoravano tutto. Che vero fanatico! Henri in suo confronto era tentato di giudicarsi frivolo, pigro, inconsistente, ma forzarsi era inutile. A 20 anni aveva tanto ammirato Dubreuil da volerlo imitare in tutto. Risultato? Sempre cascante di sonno, s'era dovuto impinzare di droghe e aveva rischiato di incretinirsi. Ma ora doveva decidersi. Privato d'ozio e di svago, perdeva il gusto di vivere e insieme quello di scrivere. Si trasformava in macchina e per 4 anni era stato una macchina. Ora ci teneva innanzitutto a ridiventare uomo.